Avventurieri, dovete sapere che le pietre nascoste nella profondità del nostro regno hanno anche delle abilità magiche. Quindi vi consiglio di estrarre la pietra che vi è stata donata e vedere cosa succede.